A Novi di Modena la scuola d'infanzia ospita il municipio e infatti gli impiegati condividono computer e tavoli appoggiati in un contrasto che colpisce sul pavimento dipinto di piedini colorati. Attorno chiacchiere da ufficio, richieste di riscossione dei contributi per l'autonoma sistemazione che non arrivano, tecnici che chiedono delucidazioni sulle infinite pratiche da presentare per le ristrutturazioni. Il governo ha stabilito che il contributo per la ricostruzione arriverà a non più dell'80% per i proprietari di prima casa e i titolari delle attività produttive. Il sindaco Luisa Turci. L'80% significa di avere un 20% a carico di imprese e cittadini che, seppure mitigato eventualmente da un recupero fiscale sul 20% con altri meccanismi, rimane comunque l'80% di contributo e non il 100%. Quindi c'è una grande differenza rispetto a tragedie analoghe successe nemmeno tanto lontano nel tempo, non andiamo 30 anni fa. C'è differenza, non tutti riusciranno a ricostruire. E questo è un problema della collettività, non è prima di tutto del singolo, ma certamente anche della collettività. Quello che si vuole è, ripeto, che questa tragedia non sia relegata ai problemi dell'Emilia Romagna, perché se noi valiamo 6 miliardi di euro, se continua così e non ci risolleviamo, tra un anno ne valiamo 2, quindi è un problema nazionale. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Novi di Modena.